Le domande presentate sono state oltre 704.000. È una cifra impressionante perché è più della somma delle regolarizzazioni effettuate nei quattro precedenti provvedimenti di questo tipo. E di queste un'enorme parte ha riguardato cittadini stranieri provenienti dall'Europa dell'Est. Il primo significato, e direi anche quello più importante di questa regolarizzazione, è un significato politico che mostra come regole restrittive che cercano di bloccare o anche regole ideologiche che cercano di demonizzare anche in qualche modo l'immigrazione, sono a tutto svantaggio non solo degli immigrati, ma anche del sistema sociale e lavorativo del nostro paese, perché la regolarizzazione ha messo in mostra che laddove c'è una restrizione accentuata, l'immigrazione, lungi dall'essere frenata o bloccata, e comunque entra per canali illegali. Allora è nell'interesse comune prendere innanzitutto consapevolezza che l'immigrazione è un fenomeno strutturale, non congiunturale. Ormai è fuori luogo, è piuttosto anacronistico dire noi chiudiamo le frontiere e l'immigrazione allora frenerà. Da questa coscienza poi deve anche scaturire una intelligente programmazione delle quote, non c'è un sistema a posteriori, cioè che prende atto poi solo successivamente che esiste una sacca di irregolarità, ma che su questa consapevolezza costruisca delle quote di ingresso più realistiche, basate per esempio anche sul fabbisogno reale di manodopera del nostro paese. Il sistema Excelsior, che era un sistema di rilevazione del fabbisogno della manodopera straniera nel nostro paese, parlava l'anno scorso di una necessità di 220.000 lavoratori stranieri nel nostro sistema industriale. Le quote riguardanti il 2003 avevano concesso l'ingresso a 60.000 lavoratori, anzi a 80.000, di cui 60.000, quindi una grandissima maggioranza, a carattere stagionale. E questo quindi fa vedere in maniera eclatante come ci sia un'enorme disparità tra il fabbisogno reale e tra le quote. Allora noi auspichiamo, sulla base delle cifre della stessa regolarizzazione, che questa discrepanza, questa asimmetria così eclatante venga recuperata attraverso una politica più lungimirante.